La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, sono le 16.30, primi e 30 secondi, eccoci qui in diretta dagli studi di Milano e vi ringrazio Oscar Giannino per l'ascolto. Come sempre vi ricordo l'indirizzo versione di Oscar, @radio24.it, per proporre argomenti di puntata e vi dice subito che oggi parliamo di pensioni, è uno dei temi che ricorre sempre, avete visto sicuramente le dichiarazioni ieri del ministro Padoan, di Tito Boeri, di nuovo di altri esponenti politici, del ministro Poletti, eccetera eccetera, e quindi torniamo sul tema. La domanda che vi faccio è: voi davvero pensate, se sì ditelo, che il problema è smontare radicalmente i tetti di pensione della legge Fornero? A quel punto però chi paga il deficit? Perché di questo si tratta. Oppure accettereste l'idea di abbassare i tetti prepensionabili, per età pensionabile, scusatemi, ma con un esborso proporzionale al numero di anni in più che scegliereste naturalmente di godere dell'assegno previdenziale, cioè un taglio del tutto proporzionale per non fare deficit in più, significa rimetterci parecchi soldini. Queste sono due delle tante strade, come vedremo però in questa breve introduzione prima di presentare gli ospiti. Non sono solo queste due brevi strade, però la scelta radicale è un po' questa. Perché la scelta radicale è un po' questa? Cosa ha detto il ministro Padoan ieri? Il ministro Padoan, lo ricordo a tutti, ha detto che c'è un margine di interesse, anzi un impegno del governo alla prossima legge di stabilità, a verificare quali sono i margini reali per incentivare sia coloro che escono dal mondo del lavoro, cioè si pensionano, sia coloro che entrano. Naturalmente ha ribadito che questo significa che il ragionamento è complesso e che poi ha aggiunto e aperto il governo a fonte di finanziamento complementare. Non ha parlato di ipotesi concrete, ma insomma ha confermato che di questo si tratterà, quindi il dibattito resterà aperto fino all'ultimo minuto della legge di stabilità, fino alla fine di dicembre. Il presidente dell'INPS Boeri è intervenuto, lo sapete già che lui ha una proposta avanzata a cui il governo con un certo fastidio ha detto: per favore fai il tuo mestiere, non ci venire a sostituire la politica. Insomma, lui è per un'ipotesi di prepensionamento, di uscita flessibile fino ai 55 anni, ha ammesso che questo crea deficit aggiuntivo, però la sua opinione è che oltre a tagliare, sono d'accordo, un po' di pensioni molto alte dovute a regimi retributivi di favore e che però non basterebbero a sanare il deficit, dice che questo però serve a creare posti di lavoro aggiuntivo per i giovani. Molti ne sono convinti, tutti i dati dicono il contrario, perché come visto già nei flussi di occupazione dell'anno scorso, quando si tratta di svecchiare le piante organiche le aziende ci stanno, e come, però poi quando si tratta di riassumere preferiscono quelli con le capacità già formate, basta prendere dall'amplissimo bacino di disoccupati e di cassi integrati che stanno nell'età sopra i 50 anni o tra i 45 in su. Ecco, quindi non è vero che c'è la sostituzione automatica, però Boeri è convinto di sì, anni fa sosteneva il contrario. Poi però ci ha aggiunto Boeri che chi è del 1980, cioè oggi ha 36 anni, per come funziona la legge Fornero, cioè per l'avanzamento automatico dell'età pensionabile di vecchiaia in proporzione all'attesa di vita, e poi per i coefficienti della legge Fornero che in realtà subordinano l'assegno delle pensioni di vecchiaia e anche a quel residuo di anzianità a un multiplo minimo della pensione minima, quindi tu devi aver maturato versamenti continuativi di una certa entità in maniera tale da avere almeno un minimo di assegno di pensione di un certo multiplo rispetto al trattamento minimo. Per effetto di questi tre fattori della riforma Fornero, dice Boeri, attenti che chi ha oggi 36 anni rischia di andare in pensione a 75 anni e con pensioni che per il 40% delle donne e fino a un quarto degli uomini potrebbero essere solo di 750 euro. Quindi non bastano solo i prepensionamenti, dice, bisogna anche pensare a questo e quindi cambiare i coefficienti della legge Fornero. Ok, si è aggiunto poi il sottosegretario alla presidenza Nannicini che ha fatto delle cifre. Il governo è disponibile a identificare una soglia di maggior deficit per effetto delle diverse misure da assumere in legge di stabilità tra i 5 e i 7 miliardi, quindi di deficit aggiuntivo si tratta. E da quello che poi ha precisato il sottosegretario Nannicini, gli interventi potrebbero essere, diciamo così, un mix tra prestito previdenziale, chi va in pensione anni prima è come se maturasse appunto un prestito che poi restituisce nei 20 anni successivi, sempre che poi naturalmente resti in vita per 20 anni, estensioni delle agevolazioni tipo quelle del part-time appena adottato, e naturalmente ha in qualche misura fatto intendere una modifica del regime delle pensioni integrative. Riflessione su questo punto. Le pensioni integrative, in realtà tutti parlano della previdenza solo pubblica nel nostro paese. I numeri della previdenza pubblica li ha ricordati da poco la Ragioneria Generale dello Stato. Innanzitutto la spesa previdenziale senza assistenza, evitate di farmi come al solito dire che è l'assistenza, no, previdenziale in senso stretto nel 2015 è stata di 4 miliardi in più del previsto, 261 miliardi, doveva essere 4 miliardi in meno, e come leggete nel DEF è prevista la spesa previdenziale salire da circa 262 miliardi, saranno un po' di più alla luce di questa correzione del 2016, fino a 282 miliardi nel 2019. La riforma Fornero ci ha evitato di finire al 18% di PIL di spesa previdenziale, però siamo al 16%, quindi quasi 4 punti di media superiore a quella europea, e soprattutto di qui al 2050, ci ricorda la Ragioneria Generale dello Stato, comunque la spesa previdenziale non scenderà mai sotto il 15% eppure tutti parlano di fare deficit aggiuntivo con i prepensionamenti. Allora, diciamo, perché non pensarla in un altro modo? Cioè, esiste un'altra strada che è quella, e ho finito la mia introduzione, di salvaguardare insieme sia l'ammontare eccessivo di spesa previdenziale pubblica, sia il diritto dei più giovani, che se noi prepensioniamo saranno sempre loro, con questi scarsi loro contributi in un sistema di ripartizione, a dover pagare la pensione a chi le prende prima, e come loro non le prenderanno mai, e quindi non mi pare una gran trovata. E per salvaguardare loro però bisogna fare un'altra scelta, se vogliamo anche tenere sotto controllo il totale della spesa pubblica previdenziale. Pensare meglio ai due pilastri integrativi. Per il momento di integrativo ce n'è solo uno, ci sono i fondi negoziali, quelli contrattuali, e quelli preesistenti ai fondi negoziali contrattuali che esistevano come prodotti previdenziali, cioè finanziari privati. Sommati, gli italiani che aderiscono a questi strumenti sono sulla carta 6 milioni e mezzo, in realtà sono molti meno, perché c'erano già 1.000.000 rotti che prima degli anni di crisi contribuivano molto irregolarmente. Nella crisi altro 1.600.000 ha smesso praticamente di contribuire, perché il reddito disponibile è sceso. Quindi in realtà chi contribuisce regolarmente ai fondi negoziali e non negoziali privati pensionistici nel nostro paese sono meno di 3 milioni di persone, per un patrimonio netto accumulato che è di circa 85 miliardi più altri 50 miliardi di prodotti finanziari comunque a scopo previdenziale. Questo dovete ragguagliarlo a 4 mila miliardi di ricchezza finanziaria delle famiglie, cioè una goccia nel mare. Perché non funzionano i fondi previdenziali privati? Perché vi abbiamo messo sopra una sberla di tasse, questo governo ha alzato al 20% la tassazione sul materato dei fondi previdenziali, e in più la detrazione fiscale per i versamenti resta molto bassa rispetto a quella di altri paesi europei. La mia opinione è che bisognerebbe invece pensare a una riforma, fine della mia introduzione, che invece di chiedere tutto all'INPS di aggravarne il deficit, punti soprattutto su un secondo pilastro di gestione privata obbligatorio, come capita in altri grandi paesi, Germania, Svizzera, Austria e così via, un secondo pilastro privato obbligatorio, e poi un terzo pilastro privato facoltativo, altrettanto come il secondo, comunque fortissimamente incentivato, molto più di oggi, quindi alzando la detrazione per il versamento annuale e cambiando radicalmente la tassazione, che è stata innalzata al 20% del maturato. Questa secondo me sarebbe l'opinione che pensa ai giovani. A, B, che salvaguarda i conti pubblici, che significa fa meno dipendere dalla fiscalità generale, che ogni anno deve integrare i pochi contributi rispetto alle tante pensioni versate, e avrebbe una logica. Però non si parla di questo, quindi mi taccio, perché sono come al solito in minoranza. La mia è un'opinione molto minoritaria, ma sentiamo invece opinioni di chi sul campo si occupa di questa questione. Quindi i nostri due ospiti sono oggi, per il sindacato, segretario confederale della UIL Guglielmo Loi, buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Buon pomeriggio e buon ascolto. E il presidente di Assoprevidenza, cioè l'Associazione Italiana per la Previdenza Complementare, Sergio Corbello. Buon pomeriggio, presidente. Buon pomeriggio. Loi, partiamo un secondo da quello che avete capito voi: A, di che cosa il governo ha in mente; B, e quale comunque sia l'obiettivo che vi proponete di qua alla legge di stabilità di ottenere davvero. L'impressione che abbiamo è che il governo farà qualcosa. Farà qualcosa con una soluzione mista, che prevederà una distinzione dei soggetti, diciamo così, interessati a un'eventuale uscita anticipata rispetto alle attuali regole, dividendo sostanzialmente in tre bacini. Il primo è quello di lavoratori in aziende in difficoltà, e cioè coloro che nel corso dell'ultima parte della loro attività lavorativa incappano in una difficoltà dell'impresa che riduce il personale, ristruttura, e che con l'attuale sistema degli ammortizzatori sociali tutt'al più potrà coprire, diciamo, il periodo di tutela di reddito per un paio d'anni, non di più. Con la Fornero molti di questi non arrivano all'età pensionata, quindi potrebbero studiare un meccanismo compartecipativo di Stato, forse aziende e magari esperienze della cosiddetta bilateralità, per allungare i 2 anni di ammortizzatori sociali a qualcos'altro, garantendo magari contributi figurativi, in modo tale che all'età pensionabile si abbia la pensione piena. Quanto vale in termini di costo? È difficile stimarlo. Quanto vale in termini di persone? Qualche centinaio di migliaia. Secondo bacino, i cosiddetti lavori faticosi, perché usurante è un termine legale che non si può usare, che effettivamente parte da un assunto che noi, come dire, condividiamo, cioè che i lavori non sono tutti uguali. Slogan semplicistico, ma per dire che si può lavorare pure a 70 anni in alcune situazioni, lavorare a 66-67 in un cantiere, nell'asilo nido, eccetera, eccetera, è molto più complesso. Il terzo bacino è l'uscita volontaria a penalità. Si tratta di capire se è una penalità totale, se è secca, se è un modello presentato dall'onorevole Damiano, insomma c'è tanta fantasia che galoppa su questo tema, l'anticipazione delle banche, tutte le cose che leggiamo. Questo ci pare che sia l'orientamento su cui potrebbe lavorare il governo. E secondo voi, per comporre queste tre cose, che sono con peso diverso ma tutte e tre in deficit aggiuntivo, quale sarebbe l'ordine di grandezza secondo voi ragionevole? In termini di costo, diciamo, sì. Generale? Ma invertiamo il tema: se hanno a disposizione dai 5-7 miliardi, moduleranno gli interventi in base alle disponibilità finanziarie, cioè evidentemente l'accompagnamento oltre 2 anni di ammortizzatore non potrà essere più lungo di X, il numero dei lavoratori interessati all'uscita anticipata perché fanno lavori pesanti sarà ridotto il più possibile, e sul terzo forse a costo zero, perché si caricherà sull'interessato l'eventuale. No, lei lo sa però che nessuno pensa a tagli proporzionali davvero, cioè, né, lo sa perché lo abbiamo appurato mille volte, né la proposta Damiano né quella Boeri, cioè non ce n'è uno in Parlamento che accetti l'idea della proporzionalità, tutti convergono sul dire al massimo 2%. Assolutamente, se però c'è solo quella, se ci sono le altre due, diciamo la pressione politica si attenua, e pure noi, pur pensando all'obiettivo più ambizioso, come un primo passo per rendere più flessibile il sistema, potremmo anche, come dire, ragionarci, mettiamola così. No, questo limito alle supposizioni. Questo naturalmente io intendo che sia un primo passo verso smontarla radicalmente la legge Fornero, perché se noi cominciamo per i 55-57 anni di imprese in crisi, per alcune tipologie di lavoratori, eccetera, eccetera, è ovvio che poi gli effetti a cascata, penso anche quelli giurisprudenziali, saranno nel tempo che noi la legge Fornero la smontiamo, perché è ovvio che l'universalità fa un po' a pugni con la discrezionalità. Però, carità, questo io capisco che è l'argomento maggioritario oggi. Non la convince molto un'impostazione invece Loi che dice ripensiamo radicalmente a un secondo pilastro obbligatorio privato, lasciando poi anche un terzo privato libero ma con forti incentivi? Io penso che vada ripensato radicalmente il sistema di welfare, che non significa ovviamente dal nostro punto di vista la cosiddetta brutale privatizzazione, però oggi abbiamo, lo dirà dopo chi rappresenta i fondi, insomma, molte persone nei fondi pensione meno di quanto dovrebbero essere, ma milioni che hanno i fondi sanitari. Ormai di fatto l'universalità è limitata, diciamo, ai livelli essenziali delle prestazioni, peraltro in molte realtà con scarsa qualità, in altre più virtuose. No, ieri abbiamo poi toccato con mano, mi sono venute tantissime telefonate dopo la trasmissione di ieri, tra l'altro grazie ascoltatori, con un mucchio di casi in cui avete documentato, soprattutto in Toscana, devo dire la verità, che ha dei ticket più elevati che altrove, che andate dal privato per non pagare il ticket pubblico, perché sì, il privato ha tariffe più basse, e quindi le polizze servono anche a questo, maledizione. No, ma assolutamente è una realtà di fatto che, tra l'altro, in molti casi, diciamo, senza ipocrisia, abbiamo contribuito a costruire, perché moltissimi fondi sanitari sono collettivi. e credo che mediamente svolgano una funzione importante anche per sgravare il sistema pubblico di un peso dal punto di vista delle erogazioni dei servizi. Quindi il tema generale del rapporto, io non dico privato, parlo di mutualità privata, che è un po' diverso dal privato privato, c'è, e sulla sanità, forse anche su altre forme di welfare e probabilmente nel futuro anche sulle pensioni. Come lei dice sul futuro, cose... però come dire, i 36 anni di cui ha parlato Boeri, che non sono proprio 16 anni, no. È un futuro ben attuale, altro che, cioè, per loro l'idea è smontarla integralmente la riforma Fornero, però così noi andiamo oltre il 20% del PIL di spesa previdenziale, cioè non sono mie opinioni, sono... No, ma questo rischio c'è, cioè, purtroppo la premessa è quella che lei conosce molto meglio di me. Con questo tasso di crescita salta il sistema. Ah no no, sì, sono d'accordo, per carità di Dio, sono d'accordo, perché è ovvio che se noi continuiamo a fare 0, neanche l'uno e mezzo, è ovvio che tutto questo poi... Il tasso di occupazione è il 57%, no, esatto. Voglio aggiustare. Allora, queste intanto le opinioni della UIL. Adesso un minuto di interruzione stradale, sentiamo cosa pensa poi il Presidente della Sopravvivenza e voi. La versione di Oscar. Allora, alcuni di voi scrivono: le risorse sono i 250 miliardi di anni di evasione fiscale. Vabbè, siete convinti? La soluzione è tutto. Vabbè, auguri. Guardatevi quanto è il recupero mensile anno, quanto è davvero il recupero di evasione fiscale. Sappiate che non ve ne viene restituito neanche un euro, che dicano i politici che se pagate tutti pagate meno, perché li tengono a copertura di altre spese. Però, per carità di Dio, ogni opinione è logica. Poi, altro ascoltatore che dice: ho calcolato con un amico assicuratore che dandogli quanto ho di contributi versati mi renderebbe da subito quasi quanto mi renderanno mensilmente tra più di 20 anni. Questo è Egidio che ci scrive, e questo dipende in che anni hai versati e quanti, a dire la verità, quindi non c'è una simile sproporzione, cioè noi siamo arrivati che fino agli ultimi 2 anni fa il rendimento era superiore di quello del TFR medio, però il conto che hai fatto tu secondo me andrebbe guardato con attenzione, se fosse vero per tutti. Ma comunque io stesso credo che abbiamo tenuto stamattina a Milano un affollato importante convegno tenuto da Ascosim, in cui abbiamo parlato a lungo di come incentivare il risparmio degli italiani, appunto, strumenti previdenziali, perché vi ho ripetuto prima, le cifre sono una goccia nel mare rispetto alla ricchezza finanziaria delle famiglie italiane. Allora, Corbello, quando lei sente parlare di questi discorsi tutti impostati sull'INPS, delle pensioni, che cosa le viene da pensare? Ma mi viene da pensare che noi parliamo troppo spesso di pensioni e un po' a vanvera, e questo mi preoccupa, che in preparazione della legge di stabilità per il 2017, che poi di questo si tratta, sì, dicembre, ad aprile a trattare l'argomento, mi sembra che si stia preparando a una sorta di massacro mediatico di qui ai prossimi mesi, come troppo spesso è accaduto. Ma lei lo sa, si vota per le amministrative, si vota a ottobre per il referendum, eccetera, eccetera. Mi rendo perfettamente conto. D'altra parte sono 40 anni che mi occupo di previdenza, e quindi prima di parlare di complementare mi permetto solo un asterisco sul discorso di smontare la Fornero. Io ho i capelli dritti quando sento parlare di queste cose, perché da un lato si fa carico a Elsa Fornero di troppa grazia. Quando parliamo dell'allungamento automatico dell'età pensionabile va scritto il merito del ministro Sacconi, l'ha trovato Elsa Fornero questo, quindi voglio dire, ci sono state una serie di provvedimenti che hanno cercato di fare una cosa fondamentale, di tamponare questo immenso buco della finanza pubblica rappresentata dalla previdenza, e il buco rappresentato dalla previdenza dipende da interventi che negli anni assai risalenti si sono di volta in volta sovrapposti, facendo sì che abbiamo avuto le pensioni baby, abbiamo avuto il pensionamento tutto sommato generosamente dato con l'anzianità e tutto quello che noi conosciamo, che fa sì che quel numero di spesa pensionistica di cui prima Oscar Giannino parlava continua a essere assolutamente alto, perché il vero discorso a questo punto, se noi riuscissimo ad avere a calmierare la spesa di base, aprirebbe veramente un varco di risorse verso la complementare e verso, e qui mi fa molto piacere quello che ha detto lui prima, verso una visione di welfare integrato e ripensato, che è sicuramente una necessità per il futuro. Allora, io personalmente sono un sostenitore che nel governo Monti il provvedimento chiave è stato il provvedimento sulle pensioni, che ci ha salvato anche nell'immagine all'esterno, e che ogni volta che si parla di smontare la Fornero io ho paura. Capisco. Lei lo sa che io siccome condivido questa opinione, però lei lo sa, l'avrà sperimentato come me, se non più di me, che significa esporsi al linciaggio immediato. Sì, sì, sì, sì, sì, direi che tra noi due io ho ancora la possibilità di avere i capelli dritti in testa. Ecco, io non ce l'ho più, però linciaggio, questo è, se uno va in televisione, in radio, eccetera, dice questo, la gente è impiccati, lavora tu fino a 80 anni, eccetera, eccetera. Perché purtroppo la realtà è questa. D'altra parte non possiamo immaginare di avere un periodo di lavoro che poi sia specularmente un periodo di trattamento pensionistico. I fattori demografici, oltre a quelli che venivano ricordati prima, delle difficoltà della crescita del nostro paese, impediscono una cosa di questo genere. Adesso, per citare Elsa Fornero, ma la frase non è sua, è ben più antica, pasti gratis, gli economisti ci insegnano che è un po' difficile averli. E io ho paura che poi tirare troppo la corda, vuole avere tutto e poi finisce di non avere niente. Questo mi preoccupa. Allora io ragiono sul fatto, ma è un ragionamento da casalinga di Voghera, non da tecnico, ragiono sul fatto che noi dovremmo sicuramente aiutare quelle situazioni del primo gruppo di cui parlava lui. È un fatto che... Cioè dipendenti di aziende in crisi che altrimenti non arrivano all'età pensionabile. E qualche ragionamento bisogna farlo, perché comunque non si può lasciare a un'età molto avanzata della gente in mezzo alla strada. E questo credo sia un obbligo sociale. Dopodiché tutto il resto, e io ho maggiore difficoltà, anche i lavori pesanti sono un concetto che non vogliamo di chiamare usuranti, che forse è una determinazione più precisa, i lavori pesanti sono un concetto molto lato, e non vorrei che attraverso il concetto di lavori pesanti passasse di nuovo uno sbracamento di carattere generale, perché il vantaggio momentaneo di ritorno politico, di entusiasmo dei percipienti, poi si riverbera con un futuro di maggior peso sui giovani. E io quando parlo a lezione ricordo sempre Enea e Anchise. Enea era un guerriero vigoroso, si portava il padre sulle spalle, ma il più vigorioso dei guerrieri, se di padri se ne deve portare molti, a un certo punto stramazzerà il suolo. E quindi non dimentichiamo che quello che facciamo oggi diventa un peso maggiore per dei giovani che hanno già delle grosse difficoltà rispetto alle prospettive economiche di carattere generale. Con questo. Lei che interventi invece sul mondo, il comparto dei fondi pensionistici chiederebbe? Ecco, sulla previdenza complementare, ancora una volta mi rifaccio alla casalinga di Voghera. Da un lato sono d'accordo con la proposta di una incentivazione, direi guidata, verso la previdenza complementare. Non sono d'accordo sulla obbligatorietà ex lege, perché a questo punto avremmo una sorta di secondo pilastro che è troppo simile al primo, ancorché sia il secondo in capitalizzazione e il primo in ripartizione. E allora io preferirei che ciascuno facesse il proprio ruolo, e i cosiddetti fondi negoziali, per usare un'espressione infelice sotto il profilo tecnico ma ormai assolutamente in uso, dovrebbero rendere obbligatoria la partecipazione dei lavoratori delle diverse categorie, con una facoltà che è quella di dire il dissenso espresso, me ne vado, arrivederci. Perché se ho invece una obbligatorietà ex lege, io forse posso anche pretendere qualche livello di garanzia di risultato minimo. Minimo, certo. Allora, per capirci, per chi non avesse chiaro, i fondi negoziali sono quelli previsti nei contratti, per esempio noi, il fondo Cometa per i metalmeccanici. Diverse tipologie, esatto. Certo. E quindi in questo caso io sarei favorevole a una canalizzazione della volontà del singolo attraverso il contratto collettivo, con un grosso asterisco che preveda una contribuzione a carico del datore di lavoro, a carico del lavoratore in una misura ragionevole, e l'uso del TFR. Perché quando prima venivano elencati il numero di iscritti alla previdenza complementare, esatto, dimentichiamo i poveretti che hanno dovuto sospendere la prestazione, ed è già un bel numero, la crisi morde, ma anche tra quelli che continuano a contribuire, non prendiamoci in giro. Esatto. Contribuire con un punto percentuale o due punti percentuali al massimo, esatto, a carico solo dell'azienda, e prendere poi qualche bel pacchetto di caramelle e non una pensione complementare. Esatto. Allora, da vecchio praticante, una pensione complementare deve essere fatta nel lungo periodo, il piano previdenziale deve essere di lungo periodo, io dico 40 anni, anche se capisco che è spaventoso, ma 40 anni, perché la forza dell'accumulo è nel tempo e con delle risorse economicamente sensate. Meno del 10% non si fa nulla. Non serve, no, è chiaro. 10% si ricava col TFR che vale 7 punti, mal contati, e poi un po' di contributi di qua e un po' di contributi di là. Se in futuro riuscissimo a avere un abbassamento della contribuzione al sistema di base, e allora potremmo recuperare qualche risorsa. Però mi pare che lei non ci crede molto al fatto che diminuiscono le tasse sui fondi e che aumentano i tetti e le detrazioni. Non ci crede molto. Ci credo poco, ma sono un realista. Ci credo poco, ma sono un realista. Io ho sempre sostenuto che il sistema europeo è un sistema chiarissimo, non è che dobbiamo inventarci la tradizione. Allora io la devo interrompere perché ormai siamo alla fine e mi dispiace perché c'è Marco, Paolo, eccetera, eccetera. Ormai il tempo qua non basta mai. E grazie.